Creo le mode di una generazione. Sono il modem che crea la connessione del computer, ma distrugge l'amore. L'unione è la parola delle persone. Sono il fumo che ti seduce, tace, poi lentamente man mano uccide. Ma il tempo inganna e non mostra il vero, come Dante che nella selva ha smarrito il sentiero. Fungo da speranza, fonte di salvezza, mi tramuto in debolezza, impianto di chi soffre. Si rimbocca le maniche pur avendo le corde. Due cuori di carta piegati a forza come origami, finti realisti ma poi sognatori. Colmiamo mancanza attraverso legami. Avessi un'altra vita, sbaglierei di nuovo tutto. Potessi urlare al mondo, lo farei nel mare aperto. E scapperò lontano da qui, come fosse un film, chiedendomi cosa siamo noi. Oltre il tempo che non passa, colma la distanza di ogni tua incertezza. Scattiamoci un selfie così restiamo eterni. Ti spaventa il cambiamento, ovvero sono cambiato, me lo confermi. Anche se poi da dentro rimango vero. Sommo le cifre del tempo, sono il sommo rinchiuso nel tempio. Il flusso di suoni che sto pronunciando lo ascolti da giorni e non riesci a tradurlo. Guardo dall'alto il cielo che filtra i colori di questa città. Vedo un giardino di fiori diversi che nella loro bellezza trasmettono felicità. Poi cambiando visione intravedo un'ombra che sporge da un muro. Due uomini insieme che hanno paura di darsi la mano, di darsi la mano. Avessi un'altra vita, sbaglierei di nuovo tutto. Potessi urlare al mondo, lo farei nel mare aperto. E scapperò lontano da qui, come fosse un film, chiedendomi cosa siamo noi. Oltre il tempo che non passa, colma la distanza. Avessi un'altra vita, sbaglierei di nuovo tutto. Potresti urlare al mondo, lo farei nel mare aperto. E scapperò lontano da qui, come fosse un film, chiedendomi cosa.